Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Fino ad ora che se ne minacciava la perdita, Emma non si era mai resa conto di quanto la sua felicità dipendesse dall'essere la prima agli occhi di Mr. Knightley, la prima in interesse e in affetto. Paga che così fosse, e sentendo di averne tutto il diritto, ne aveva goduto senza pensarci su. E solo nell'angoscia d'essere soppiantata capì che importanza incalcolabile ciò avesse. A lungo, molto a lungo, sentì d'essere stata la prima, perché non avendo altri parenti femmine, c'era stata solo Isabella ad avere titoli paragonabili ai suoi, e aveva sempre ed esattamente saputo a quanto giungessero l'affetto e la stima di lui per Isabella. Era stata la prima ai suoi occhi per molti, molti anni. Non l'aveva meritato. Era stata spesso negligente o bisbetica. Aveva fatto poco conto del suo giudizio o l'aveva persino tenuto in non cale, incapace di apprezzare metà delle sue doti e pronta a bisticciarsi con lui perché non voleva riconoscere l'opinione, falsa e insolente, che di se stessa aveva. Eppure, per affetto e abitudine di famiglia e superiorità intellettuale, lui le aveva voluto bene, aveva vegliato su di lei da quando era ragazza sforzandosi di migliorarla, e con un'ansia di vederla agir bene che nessun'altra creatura al mondo aveva mai dimostrato. Nonostante tutti i suoi difetti, Emma sapeva di essergli cara. Non poteva dire, anzi, molto cara? Tuttavia, quando i suggerimenti della speranza che a questo punto dovevano seguire si presentavano, non poteva accettare di abbandonarvisi. Harriet Smith poteva non sentirsi indegna del particolare, esclusivo, appassionato amore di Mr. Knightley. Lei no. Non poteva cullarsi in nessuna idea di cecità nel suo attaccamento per lei. Dell'imparzialità di questo aveva avuto recentissime prove. Com'era rimasto urtato Mr. Knightley del suo contegno con Miss Bates? Con quanta franchezza, con quanta energia si era espresso su di lei a tal proposito? Non troppo energicamente per offenderla, ma troppo, oh, troppo per tradire sentimenti più teneri di una retta giustizia e di un lungimirante benvolere. Emma non nutriva alcuna speranza, nulla che meritasse il nome di speranza, che egli potesse avere per lei il genere d'affetto ora in questione. Ma rimaneva la speranza, a volte debole, a volte molto più forte, che Harriet si fosse sbagliata e avesse sopravvalutato le sue premure per lei. Desiderarlo doveva per il suo bene, quand'anche l'unica conseguenza per lei fosse il suo rimanere scapolo per tutta la vita. E se avesse potuto assicurarsi che non si sarebbe mai sposato, forse ne avrebbe tratto motivo di sollievo, purché continuasse ad essere per lei e per suo padre lo stesso Mr. Knightley, lo stesso per tutti. Purché Danwell e Harfield non perdessero nulla del loro prezioso scambio di amicizia e confidenza, la sua pace non avrebbe temuto ombre. Il matrimonio in realtà non li si addiceva. Sarebbe stato incompatibile sia coi doveri verso il babbo, sia coi sentimenti che provava verso di lui. Nulla doveva separarla dal padre. Non si sarebbe mai sposata, neppure se Mr. Knightley avesse chiesto la sua mano. Era inevitabile che suo desiderio ardente fosse la delusione di Harriet e sperava, rivedendoli assieme, di poter almeno constatare la probabilità che si verificasse. D'ora in poi li avrebbe osservati con occhio più attento e per quanto finora si fosse miseramente sbagliata nel giudizio di coloro che osservava, non poteva ammettere che questa volta sarebbe stata cieca. Lo si aspettava da un giorno all'altro. L'osservazione sarebbe presto stata possibile. Terribilmente presto, sembrava, quando i pensieri seguivano un certo corso. Frattanto, decise di non vedere Harriet. Non avrebbe fatto bene né all'una né all'altra, né avrebbe giovato all'argomento continuare a parlarne. Era decisa a non essere convinta finché le rimaneva una possibilità di dubitare. E tuttavia non aveva alcuna autorità per opporsi alle confidenze di Harriet. Parlare avrebbe solo servito a irritare. Perciò le scrisse, in tono cortese ma fermo, pregandola per il momento di non venire ad Hartfield ed esprimendo l'avviso che di un certo soggetto fosse per ora meglio evitar di discutere a tu per tu, e l'augurio che, lasciati passare alcuni giorni prima di rivedersi, se non in compagnia d'altri, potessero comportarsi come se avessero dimenticato il colloquio del giorno avanti. Harriet si rassegnò, approvò tale decisione e parve grata. Questo punto era appena risolto quando, a strappare i pensieri di Emma dal solo argomento che nel sonno o nella veglia li avesse occupati nelle ultime 24 ore, giunse una visita. La signora Weston, che, andata a salutare la futura nuora, si era fermata nel ritorno ad Hartfield per dovere verso Emma, quasi come per piacere suo, pronta a raccontare tutti i particolari di un così interessante incontro. Mr. Weston l'aveva accompagnata a casa di Mrs. Bates, superando brillantemente la propria parte di necessarie attenzioni. Ma lei, avendo indotto Miss Fairfax ad accompagnarla per un breve tratto di strada, veniva con molto più da dire e con molta più soddisfazione di quanto si potesse ricavare da un quarto d'ora nel salotto di Mrs. Bates, con tutto il suo ingombro di sentimenti impacciati. Una piccola curiosità tormentava Emma e fece del suo meglio per soddisfarla mentre la sua amica raccontava. Mrs. Weston si era decisa a quella visita non senza una certa agitazione e in un primo tempo avrebbe desiderato addirittura non farla, limitandosi a scrivere a Miss Fairfax e rinviando la visita d'obbligo a un po' più tardi, quando il signor Churchill si fosse convinto a render noto il fidanzamento. Ma il signor Weston non la pensava così. Era troppo ansioso di mostrare a Miss Fairfax e famiglia il proprio assenso, e non poteva ammettere che la cosa destasse sospetti o, se li destava, che avessero un peso. Giacché, osservava, quelle cose finiscono sempre per circolare. Emma sorrise e capì che il signor Weston aveva mille ragioni. Per farla breve, c'erano andati. E l'imbarazzo e il disagio della ragazza erano stati enormi, evidenti. Non era riuscita a dir parola e ogni suo sguardo, ogni gesto avevano tradito quanto soffrisse internamente. La tranquilla e profonda soddisfazione della vecchia e l'entusiasmo della figlia, che si era mostrata troppo felice per essere loquace come al solito, erano stati una scena gradevole, ma quasi tali da strappar le lacrime. Erano tutte e due così sinceramente rispettabili nella loro gioia, così disinteressate in ogni sentimento. Avevano una così profonda stima di Jane e di ciascuno e così scarsa opinione di se stesse che ogni sentimento gentile era per loro. La recente malattia di Miss Fairfax aveva offerto a Miss Weston una buona scusa per invitarla a prendere una boccata d'aria. A tutta prima si era schermita e aveva detto di no, ma a furia di sentirsi pregare aveva ceduto. E durante il tragitto la signora Weston aveva messo in fuga con gentile sollecitudine tanta parte della sua timidezza da indurla a parlare dell'importante argomento. Era inevitabile che la discussione si aprisse con scuse per il suo silenzio apparentemente altezzoso al primo incontro e con più calde espressioni di gratitudine per lei e Mrs. Weston. Ma cessate queste effusioni, avevano parlato a lungo dello stato presente e futuro del fidanzamento. Mrs. Weston era convinta che il colloquio avesse recato gran sollievo alla sua compagna, dopo tutto il tempo che aveva tenuto nascosta ogni cosa e l'avesse lasciata quanto mai soddisfatta di ciò che in merito era stato detto. «È stata molto esplicita su quanto ha sofferto in tutti questi mesi di segretezza», continuò la signora Weston. «Ecco una delle sue espressioni. Non voglio dire di non aver avuto qualche momento felice da quando mi sono fidanzata, ma è certo che non ho mai conosciuto la gioia di un'ora tranquilla». E il labbro tremante che la pronunciava ne era, Emma, una conferma che mi ha toccato il cuore. «Povera ragazza», disse Emma, «crede dunque di aver sbagliato ad accettare un fidanzamento segreto?» «Sbagliato? Oh, nessuno, credo, può biasimarla più di quanto lei stessa sia disposta a biasimarsi. La conseguenza è stata una sofferenza continua per me, ha detto. Ed era naturale che così fosse. Ma con tutte le pene che può portare una cattiva condotta, rimane sempre cattiva condotta. Soffrire non è espiare. Mi potrò sempre biasimare. Ho agito contro il mio stesso senso del giusto. E la piega favorevole che ogni cosa ha preso e la bontà che ora mi si dimostra, la mia coscienza le condanna. E ha aggiunto: non creda, signora, che sia stata educata male. Non ne tragga motivo di giudicare con severità i principi di chi mi ha cresciuta. L'errore è stato tutto mio. E le assicuro che con tutte le scusanti che la situazione attuale sembra offrire, avrò sempre una gran paura di far sapere la storia al colonnello Campbell. Povera ragazza, esclamò nuovamente Emma. Dunque l'ama appassionatamente, immagino. Solo un affetto profondo poteva indurla a fidanzarsi. L'amore deve aver soverchiato il giudizio. Le notizie portate dalla signora Weston diedero ad Emma nuovo alimento a riflessioni sgradevoli, con l'accrescerne la stima, la compassione e il senso della passata ingiustizia verso Miss Fairfax. Rimpianse amaramente di non aver cercato di conoscerla più a fondo e arrossì dei sentimenti d'invidia che, in una certa misura, ne erano stati la causa. Se avesse seguito il noto desiderio di Mr. Knightley di usarle le attenzioni che le erano in tutti i modi dovute, se avesse cercato di conoscerla meglio, se avesse fatto quanto poteva per stabilire rapporti di intimità, se si fosse sforzata di trovare un'amica in lei piuttosto che in Harriet Smith, molto probabilmente le sarebbero state risparmiate tutte le sofferenze di cui ora sopportava il peso. Nascita, doti intellettuali, educazione avevano cospirato a fare dell'una una compagna da accogliere con gratitudine, l'altra che cos'era? Anche supponendo che non fossero mai divenute intime, che in quest'importante faccenda ella non fosse mai stata ammessa alla confidenza di Miss Fairfax, cosa estremamente probabile, pure, conoscendola come avrebbe dovuto e potuto, avrebbe evitato gli abominevoli sospetti di uno sconveniente attaccamento a Mr. Dixon, che non soltanto aveva stoltamente intrattenuti, ma comunicati in modo imperdonabile ad altri. Idea che temeva fosse stata causa di profonda pena alla sensibilità di Jane per la leggerezza o la faciloneria di Frank Churchill. Fra tutte le fonti di angoscia che l'avevano circondata dal suo arrivo ad Highbury, Emma era convinta che la peggiore fosse proprio stata lei. Doveva averla sempre considerata una nemica. Non s'erano potuti trovare insieme tutti e tre senza che ella turbasse in mille modi la pace di Jane Fairfax. E l'episodio di Box Hill era forse stato l'agonia di un'anima incapace di resistere oltre. La sera di quel giorno fu molto lunga e melanconica ad Harfield, e il tempo vi contribuì col suo grigiore. Cominciò una pioggia fredda e tempestosa, e luglio non apparve che negli alberi e arboscelli spogliati dal vento e nella lunghezza del giorno che rendeva ancor più tangibile quello spettacolo crudele. Il tempo influì sul signor Woodhouse. A mantenere la cui serenità furono necessarie le quasi incessanti premure della figlia e una pazienza quale non le era mai stata imposta prima di allora. Emma ricordava il malinconico primo tête-à-tête la sera delle nozze di Mrs. Weston, ma allora, subito dopo il tè, si era fatto vedere Mr. Knightley e l'atmosfera cupa era stata dispersa. Ahimè, ben presto quelle deliziose prove dell'attrazione di Hartfield sarebbero cessate. Il quadro che allora Emma s'era fatto delle privazioni del prossimo inverno s'era dimostrato falso. Nessun amico li aveva lasciati, nessun piacere era andato perso. Ma analoghe smentite temeva che gli attuali presentimenti non avrebbero ricevuto. Le prospettive che le stavano dinanzi erano minacciose quanto mai potevano esserlo. Il cielo del suo avvenire non tollerava che deboli schiarite. Se tutto quello che poteva avvenire entro la cerchia delle sue amicizie fosse davvero accaduto, Hartsfield sarebbe rimasta quasi deserta e lei lasciata a rasserenare suo padre nello spirito di una felicità rovinata. Il figlio che doveva nascere a Randalls avrebbe creato laggiù un vincolo indubbiamente più caro che lei stessa, e il cuore e il tempo di Mrs. Weston ne sarebbero stati assorbiti. L'avrebbero persa, e forse, in notevole grado, avrebbero anche perso il marito. Frank Churchill non sarebbe più tornato in mezzo a loro. Quanto a Miss Fairfax, era ragionevole supporre che avrebbe cessato quanto prima di appartenere ad Highbury. Si sarebbero sposati stabilendosi a Enscombe o nelle sue vicinanze. Ogni cosa buona sarebbe scomparsa, e se a queste perdite doveva aggiungersi la perdita di Donwell, che cosa sarebbe rimasto di gaio o intelligente alla portata delle loro mani? Mr. Knightley, non venir più a confortar suo padre, non arrivare più ad ogni ora come ansioso di scambiare la propria casa con Hartsfield. Era mai possibile tollerarlo? E se il destino voleva che lo perdessero a causa di Harriet, se d'ora innanzi si doveva pensare che in compagnia di Harriet trovasse tutto quanto desiderava, se Harriet era chiamata ad essere la preferita, la prima, la più cara, l'amica, la moglie, alla quale egli avrebbe chiesto le gioie più pure della vita, che cosa non avrebbe potuto accrescere il tormento di Emma se non la riflessione, mai assente dal suo pensiero, che era stato tutto opera sua? Toccato questo vertice, Emma non poté frenare un brivido, soffocare un sospiro profondo o trattenersi dal passeggiare su e giù per la stanza. E la sola fonte alla quale potesse attingere qualcosa di simile alla consolazione o alla calma fu la decisione di comportarsi meglio e la speranza che, per quanto inferiore in spirito e gaiezza, potesse riuscire il prossimo inverno e ogni inverno futuro della propria vita, l'avrebbe però trovata più saggia e sicura di se stessa e le avrebbe lasciato, quando fosse trascorso, meno rimpianti. Il tempo rimase su per giù lo stesso per tutto il mattino successivo e la stessa solitudine e malinconia parve regnare ad Highbury. Ma nel pomeriggio si schiarì, il vento calò, le nubi vennero spazzate via, il sole fece capolino e fu nuovamente estate. Con tutta l'animazione che un simile cambiamento dà, Emma decise di uscire il più presto possibile. Mai le era parsa più attraente la dolcezza della vista, dei profumi, della sensazione di una natura tranquilla, assolata e brillante dopo la tempesta. Era assetata della serenità che avrebbero a poco introdotto. E all'arrivo di Mr. Perry, subito dopo pranzo, con un'ora libera da dedicare a suo padre, non perse tempo e si recò nell'arboreto. Qui, con spirito rinfrescato e pensieri un po' meno bui, aveva appena fatto quattro passi quando vide Mr. Knightley attraversare il cancello e venirle incontro. Era il primo annuncio del suo ritorno da Londra. Proprio un momento prima, Emma l'aveva pensato a non meno di 16 miglia e non ebbe tempo che per un rapidissimo adattamento mentale. Doveva essere calma e composta. Mezzo minuto dopo, erano uno accanto all'altra. «E come sta?» furono da ambo le parti calmi e misurati. Emma chiese notizie dei comuni amici. Stavano tutti bene. Quando li aveva lasciati? Solo quel mattino. Doveva essersi inzuppato durante il viaggio? Sì. Aveva voglia di passeggiare con lei, scoprì Emma. Aveva fatto una capatina in sala da pranzo, disse, ma visto che lì non era necessario, preferiva stare all'aria aperta. Non sembrava né che avesse un'aria allegra né che parlasse volentieri. E la prima causa possibile che di ciò le sue paure suggerissero ad Emma era che forse avesse comunicato al fratello i suoi progetti e fosse attristato dal modo come li aveva accolti. Passeggiarono insieme. Egli taceva. E a Emma parve che la guardasse di frequente, cercando di ottenere dal suo volto un quadro più completo di quanto le convenisse di dargli. E questa convinzione risvegliò in lei un altro timore. Forse voleva parlarle del suo amore per Harriet. Forse attendeva per cominciare un suo incoraggiamento. Ma su un tema simile Emma non si sentiva, non poteva sentirsi di condurlo. Doveva arrivarci da solo. E tuttavia non poteva sopportare quel silenzio. Con lui era assolutamente innaturale. Rifletté, decise e cercando di sorridere disse: «Ora che è tornato, dovrà sentire certe notizie che la sorprenderanno non poco». «Davvero?» chiese lui, calmo, guardandola. «Di che natura?» «Oh, della miglior natura possibile! Un fidanzamento!» Dopo breve attesa, come per assicurarsi che non volesse dir altro, egli rispose: «Se allude a Miss Fairfax e Frank Churchill, ne ho già sentito parlare». «Com'è possibile?» esclamò Emma, volgendogli le guance in fiamma, perché mentre parlava le era venuto in mente che forse lungo la strada si fosse fermato da Mrs. Goddard. «Stamattina ho ricevuto poche righe di Mr. Elton intorno a questioni parrocchiali e in fondo un breve annuncio di quanto era successo». Emma provò un senso di sollievo e poté dire un po' più calma: «Probabilmente lei ne è rimasto meno sorpreso di noi tutti perché lo sospettava. Non ho dimenticato come una volta mi mettesse sull'avviso. Vorrei averle dato retta, ma...» aggiunse con voce più debole e un sospiro profondo: «il mio destino è d'essere cieca, a quanto sembra». Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.